Io non attendo, ma aspetto il tuo passare. I fiori del mio terrazzo sono immobili e mi guardano fissi. Il mio alito non li smuove. Il pavimento della stanza è a quadri e non so quale pestare. Le matite mi guardano sogghignando un lamento. Ed io impazzisco scaraventando i miei occhi contro le luci della città. I bicchieri a bocca aperta vuoti mi deludono sempre. La mia mano accarezza il telefono aspettando un suono. Notte, non osare arrivare sola, potrei odiarti. Attraverso un bicchiere vedo un animale strano. Non riesco a riconoscerlo, eppure davanti a me ci sono i riflessi. Ciclo del Cerevallo. Ce le vanno che cincin cincin la biciaculin, guardo se la ce la biciacolo che ti disso cincin cincin la biciaculin. Per il dimetil per la zona la metti sul frato sodico.